la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24, 16:31 primi e 10 secondi in questo mercoledì 31 di maggio. Vi dico subito di che cosa parliamo oggi in trasmissione. Se volete chiamarci anche, ma il tentativo sarà innanzitutto quello di spiegare che cosa abbiamo capito di cosa sta avvenendo. Vicenda Ilva, per intenderci, Taranto. Azienda commissariata giudizialmente dal 2012, fa impressione ricordare che sono passati più di 5 anni. Ieri è avvenuto il primo incontro da parte del ministro Carlo Calenda, il viceministro Bellanova, che è quello che segue tutti i tavoli di crisi, i commissari dell'ILVA, che sono Gnudi, Carroba, Laghi, con i sindacati. E avremo con noi uno dei presenti, cioè il segretario della FIMCISL, Marco Bentivogli, per capire che cosa è stato loro detto. Intanto c'è già una decisione di sciopero presa di fronte a uno dei punti, che è quello che riguarda la prima valutazione degli esuberi. Sapete che non c'è stata ancora l'aggiudicazione formale di chi ha vinto la gara. Pur tuttavia c'è una valutazione che è in corso di formazione, che vede oramai avvantaggiata, e quindi dovrebbe essere lei a vincere, la cordata che vede la testa con l'85% il grande gruppo mondiale ArcelorMittal, 15% Marcegaglia e Intesa San Paolo nella cordata, rispetto all'altra cordata, cioè quella di Acciaio Italia, formata da Jindal, CDP, Cassa Depositi e Prestiti, Arvedi e Delfin. Voglio solo dirvi, prima di andare al punto, che stamattina c'è stata naturalmente le considerazioni generali di Banca Italia da parte del governatore Ignazio Visco. Vi rinvio in questo per l'approfondimento Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Personalmente vi dico solo che ho sperato da qualche parte che ci fosse anche una parola di pur sobria autocritica in relazione a, bisogna parlare, usando il termine giusto, fallimenti anche della vigilanza, che sono avvenuti insieme a molti fallimenti della regolazione nelle vicende delle banche su cui indagano le procure in Italia, le 4 risolte, le 2 venete, Siena, e invece no, sono rimasto un po' deluso, lo capisco, ma credo che invece sarebbe stato meglio se Banca Italia avesse anche toccato questo punto. Abbraccio il governatore rispetto al testo, ha aggiunto una frase in cui ha detto: non mancherà il tempo e l'occasione per capire meglio come Banca Italia ha fatto al meglio il suo dovere, e ha lamentato di essere stato l'istituzione Banca d'Italia duramente attaccato del tutto a torto. E invece, come mi aspettavo, confermate le critiche alla direttiva europea e alle procedure troppo lunghe di consultazione ancora in corso, come sapete, che sono un punto critico per le due banche venete. Io credo che lì ci sia una responsabilità della politica italiana, che ha perso troppo tempo e adesso se le ritrova in procinto di bail-in. Su questo Banca Italia ha ribadito che gli organi europei sono diventati più bravi a dire no che a risolvere le cose, e ha aggiunto: con le crisi bancarie, quando le si fa procedere nel tempo, diventano poi ancora più rischiose di quanto non fossero alla loro esplosione. Quindi un impianto molto critico verso le regole europee, ma questo lo sappiamo, fa parte di quello che la Banca d'Italia ci ha detto in questi anni di fronte alla direttiva della risoluzione. Nessuna autocritica, molte considerazioni interessanti invece sul ruolo positivo del svolto della BCE in questi anni con le sue politiche non ortodosse, una certa fiducia nella sostenibilità della ripresa mondiale, e anche giudizi critici sul fatto che di tutto abbiamo bisogno tranne che di instabilità politica in questi anni. Una valutazione sul fatto che bastino 10 anni, non mettetevi a ridere, ma insomma è una cosa numericamente sta in piedi, di avanzi primari non superiore all'1,5% se c'è un tasso di crescita, sia pur contenuto all'1, ma con un'inflazione del 2%, almeno questo darebbe una significativa diminuzione per via dell'aumento del denominatore della componente nominale al debito pubblico italiano. E detto tutto questo, solo noi minoritari critici, insomma, dei regolatori sulle banche italiane rimaniamo delusi, perché per il resto è stata una relazione molto solida. Ma andiamo appunto a parlare dell'Ilva. È in studio con me intanto il collega del Sole, che da anni con le sue analisi sull'Ilva, e non solo, su tutta la parte della manifattura, la siderurgia e la parte dell'industria italiana, con la sua firma ci regala un mucchio di approfondimenti. Paolo Bricco, grazie di essere con noi qui in studio. Buongiorno Oscar e buongiorno a tutti i radioascoltatori. E Marco Bentivogli, appunto, il segretario della FIM CISD. Buon pomeriggio, Marco. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, io inizio direttamente dal punto per cui si arriva all'indizione del primo sciopero, perché le agenzie, quindi parliamo immediatamente della questione delle stime delle due cordate sugli occupati dell'Ilva, perché da una parte noi abbiamo il fatto che in questi anni, sommando i vari strumenti a cui hanno fatto ricorso per i 4 anni successivi i commissari, noi abbiamo avuto fino a una punta massima, correggimi Paolo se sbaglio, fino a quasi 5.000 dei 14.000 dipendenti che erano all'inizio dell'Ilva interessati in casse varie e diverse. Come a dire che quei 5.000 erano considerati dalla gestione commissariale, ecco, non più difendibili, come vogliamo dirla. Adesso, da una parte le due cordate sembrano dire se ci fate lavorare nel medio-lungo periodo aumenteranno gli occupati, ma partendo dal presupposto che quei 5.000 non si recuperano, o sbaglio Bentivogli? Sì, mi sembra l'unica certezza di questi due piani. C'è chi dice che sono un po' sorpresi del fatto che siamo noi a nostra volta sorpresi della dichiarazione di esuberi, ma su 14.200 lavoratori un piano, quello di Jindal e di Acciaio Italia, presenta 6.400, dal 2018 6.400 esuberi. Tra l'altro viene poco raccontato, viene presentato questo piano di 6.400 esuberi con un costo medio di lavoratore attorno ai 43.000 euro annui di RAL, per cui un costo sostanzialmente più basso, che prevederebbe anche un taglio dei salari. E comunque il conto è salato anche per ArcelorMittal, questo è il primo aspetto. Il problema più grosso è che noi siamo chiamati in quest'ultima fase in maniera un po' frettolosa a valutare dei piani in cui mancano alcuni aspetti sostanziali. Ecco, questo è un altro dei problemi molto importanti, perché siccome anche nel piano su cui c'è più orientamento da parte dei commissari, anzi c'è una vera e propria decisione da parte dei commissari, no? Di ArcelorMittal, anche in questo non è chiaro esattamente come si ridarà competitività industriale all'Ilva, come si ricostruirà e ricostituirà una catena del valore che la renda redditizia, ecosostenibile e in grado di sostenere anche gli occupati che sono dichiarati, perché se si importano bramme, il pezzo di redditività delle bramme è importante, viene realizzato fuori dallo stabilimento. Ecco, allora bisogna fare una valutazione un po' più chiara. Tra l'altro entrambi i piani vivono di una problematica che io personalmente e la FIM abbiamo sempre sollevato: che senso ha fissare nel decreto ambientale i limiti sulla produzione e non sulle emissioni? Perché l'altro problema della occupazione iniziale scarsa. Allora, qui non diamo per scontato che chi ci ascolta capisca. Nel decreto, perché poi qui ci sono due fonti diverse, c'era la legge per l'AIA e il decreto ministeriale, che contemplavano due tetti non superabili, da quello che si capiva, di produzione, Paolo, sempre correggimi, sì, se sbaglio, è corretto questo, in termini di milioni di tonnellate, che però erano diversi, perché uno diceva 6 milioni, 8 milioni. 6 e 8, esattamente. Ecco, e tant'è che alcuni di noi dicevano, quale di questi è forse, correggimi anche tu, Bentivogli, è forse effetto di una trattativa, perché c'è un problema di sovrapproduzione europea dell'acciaio, c'è tutto lo sfondo delle impugnative fatte dai tedeschi rispetto, che poi hanno portato, no, alla procedura di infrazione per il sospetto di aiuto di Stato sul prestito ponte, eccetera eccetera. Alcuni di noi hanno detto, forse hanno contrattato questa quota massima. Tu che dici, Paolo? Ecco, mi permetto di dissentire da quello che ha appena detto Marco Bentivogli, che è uno dei sindacalisti italiani che io stimo di più, per il realismo, per la capacità di dire anche la verità ai suoi iscritti e ai lavoratori. Mi permetto di dissentire perché, primo punto, i sindacati sapevano sin dall'inizio che i tagli ci sarebbero stati. E lo sapevano perché i sindacati hanno accesso alle informazioni come lo hanno i giornalisti, come lo hanno i membri della business community, come lo hanno i membri della siderurgia italiana. E i sindacati sapevano perfettamente che cosa è successo dal 2008 a oggi. I due fenomeni che sono successi, che si sono verificati, sono all'interno del perimetro dell'Ilva una caduta di redditività e una contrazione rispetto all'apice di 12 milioni di tonnellate prodotte al top dal periodo del Famiglia Riva, e poi l'implosione, la caduta, il disastro legato a vicende giudiziarie. In Europa, punto secondo, invece una sovrapproduzione legata al fatto che i mercati mondiali sono stati invasi dai prodotti cinesi e in minore parte russi e indiani. Il combinato disposto di questi due elementi ha fatto sì che chiunque al Ministero dello Sviluppo Economico, che è stato il motore di questo sostanziale salvataggio, oppure chiunque nella siderurgia italiana internazionale si avvicinasse all'Ilva, tutti sapevano che quei livelli di produzione non erano più realistici, non vi sarebbero mai più stati. E soprattutto in un meccanismo come la siderurgia c'è una proporzionalità tra la produzione e gli addetti. Quindi io capisco benissimo la ritualità, capisco anche il dolore del mestiere del sindacalista, però io credo che in questo passaggio sia necessario ricordare questi elementi, ecco Marco. No, no, certo, però resta il problema che noi abbiamo fonti normative con dei quantitativi diversi rispetto ai quali poi le proposte in campo, da quello che ne sappiamo, sono diverse ulteriormente. Quindi, sono diverse ulteriormente, 6 e 8 milioni, ma sempre molto molto lontano rispetto. Che dici? Sentiamo Bettioli, perché tu hai detto, voi lo sapevate, cari sindacalisti, tu che dici? No, ma allora, siccome Bricco mi conosce, sa bene che io di ritualità, insomma, ne utilizzo assai poca. Le due cordate informalmente, tra l'altro io sono stato parecchio infastidito di questa cosa, perché non si può accedere a chiacchierate informali con le due cordate e sentirsi dire contemporaneamente dalle istituzioni di farlo con delicatezza, perché questo sarebbe stato oggetto di possibili sanzioni sulla gara con criteri europei. Io sono abituato a fare le cose appunto secondo mestiere, per cui le cose bisogna conoscere, se sono notizie vanno verificate, se non sono notizie a me le chiacchiere non interessano. Bisogna sapere che entrambe le cordate hanno tenuto completamente celato l'assetto occupazionale di riferimento, questo perché il ministro Calenda li ha inibiti su questo tipo di comunicazione. Non so se altre organizzazioni sindacali queste cose sono state chiarite, a me e alla FIM non sono mai state chiarite, per cui il sapevamo, mi dispiace, non c'è. C'è però un altro ragionamento. Io continuo a pensare che un decreto ambientale fatto sul tonnellaggio non è una garanzia ambientale di nessun tipo, perché non, il tema che doveva essere affrontato, l'ho detto in tutte le lingue, era il livello di emissioni e non di produzione, perché il livello di tonnellaggio dello stabilimento rischia di essere un vincolo non già sull'ambientalizzazione. No, no, è proprio sulla quota, infatti il problema è assolutamente lì, cioè sembra una risposta preventiva alla procedura europea, scambiando due cose che poi non sono sullo stesso tavolo, perché e un anche conto allo scrutinio dei magistrati. Solo, esatto. Non solo, se noi andiamo ad analizzare la spinta che c'è dei concorrenti europei e internazionali che non vedono l'ora di spartirsi le quote dell'IVA, esatto, e in larga parte se le sono, ma già, se sono già spartite, esatto, spartite perfettamente. Spesso sono molto simili alla parte di ambientalismo più incompetente e dei politici che van dietro, in particolare nella regione Puglia, ma non solo. Allora, Marco, non mi fare dire che questi 5 anni di nazionalizzazione per via giudiziale, inventandosi fattispecie e poteri che non esistevano, hanno consentito questo processo. Perché questo come è il punto sapete, vero. Se c'è stato, se oltre alle questioni fiscali, se c'è stato un punto d'attrito col governo Renzi del sottoscritto, è stata proprio questa nazionalizzazione farlocca che è durata 6 mesi, succedita da guerra con piuttosto qualche problema sul campo, perché in questa fase non solo Ilva non ha riacquisito attrattività nei settori su cui era già debole, ma ha perso un terreno. E ricordiamo a chi ci ascolta che nel 2015 la Svimez parlò di 10 miliardi di euro di valore perso. Se poi sommiamo ai 2 miliardi e mezzo già allora di capitale che se n'è andato via, il miliardo e mezzo Rotti che se n'è andato via, io direi che siamo a più di un punto di PIL. Possiamo essere intorno ai 15 miliardi di euro. Siamo a un punto di PIL, andato. Di roba che se n'è andata. Però su questa vicenda posso interloquire con Marco. Ecco Marco, tu hai ragione che nel migliore dei mondi possibili si sarebbe dovuto ragionare per emissioni, non per tonnellaggio, ma allo stesso tempo va riconosciuto che l'industria primaria siderurgica, e soprattutto un'industria primaria siderurgica incistata così tanto in una città come Taranto, con le fuoche e fiamme a poche centinaia di metri dalle abitazioni, in ogni caso quando la produzione cala i valori dell'aria, dell'acqua e della terra migliorano, e questo si è visto in maniera automatica negli ultimi anni, in maniera automatica. Per cui hai perfettamente ragione a dire che si sarebbe dovuto procedere per emissioni, non per tonnellaggio. Ma questo criterio razionale, razionalista, sarebbe stato utile, efficace in mezzo al deserto dei Gobi, non lì, non in mezzo allora, a decine Paolo, di migliaia su questo, di persone. Su questo c'è un'altra cosa, ma poi dobbiamo tornare alla faccenda, anche perché adesso abbiamo un minuto di informazioni di servizio. Io avrei preferito fin dall'inizio, invece che imbarcarsi in questa via giudiziaria, a fare degli interventi per la messa in sicurezza ambientale di un impianto come quello vicino al centro abitato, figlio dell'evoluzione della siderurgia pubblica, non dei privati, un banco di prova europeo, visto che cose simili esistono in Polonia come esistono in Germania, in Austria, e allora avremmo dovuto fare un banco europeo senza perdere 5 anni per via dei magistrati, e credo che avevamo anche qualche buona chance, perdendo meno quota nel frattempo, perché abbiamo dato la carne viva esattamente alle aspettative degli altri di prendersi al nostro posto. Ma questa è la mia opinione. Intanto un minuto, poi torniamo con i nostri due ospiti, Paolo Bricco e Marco Bentivogli, a parlare di Ilva, adesso traffico. La versione di Oscar. Marco Bentivogli, ti dico subito, ascoltatore da Taranto chiede, ma i tubifici, cioè da quello che vi hanno detto ieri negli incontri, che sono 870 dipendenti, ci sono o non ci sono? Non ci sono. Non ci infatti sono. Il tema è che accanto a noi sono mesi che spieghiamo a tutti quanti, ma i tubifici a Taranto occupano 850 persone. Nessuna delle due cordate prevedeva un futuro per i tubifici, in particolare ArcelorMittal non ne parla proprio, poi ha una specializzazione produttiva sui laminati piani e sui tubi non ha certo questo tipo di... È chiaro che lì è un altro pezzo di occupazione, però per rispondere a Bricco, ecco, il tema si può affrontare in mille modi. Il problema vero è che a Taranto si sono valorizzate le posizioni contrapposte, ecco, e si sono premiate le idiozie contrapposte, cioè... non c'è modo di applausi produrre in modo diverso, e un ambientalismo solo di contrapposizione. C'è quello che è accaduto a Linz con Alpine Vestal, non ha ragionato di tonnellaggio, ha ragionato di obiettivi. L'obiettivo era di uno stabilimento a ciclo integrale, come è esattamente quello di Linz, a ridosso del centro abitato. Come può non litigare con l'ambiente e la produzione dell'acciaio? Lì, differentemente da ciò che avviene in Italia, i giovani amministratori locali sono stati misurati dalla popolazione nella capacità di risolvere il problema. Stiamo parlando, lo ripetiamo per gli ascoltatori, Linz, Austria, ecco perché sennò... Certo. E oggi c'è uno degli impianti che va bene, produce e ha un livello di ecosostenibilità di grande livello. E il problema vero è che questo piano, oltre il tema degli esuberi, è uno dei temi. E il fatto che il ministro Calenda ci dica che ci sono comunque coperture, possibilità, diversificazioni, va tutto bene, però il problema è il cuore del piano industriale, perché evocare che ci si batterà per riconquistare l'automotive, su cui il gruppo Ilva è stato sempre più debole, questo è un problema. Noi Oscar avevamo una grande speranza, io lo dico senza remore, si chiamava Enrico Bondi, lo si è cacciato, mentre stava facendo tutto ciò che era necessario per far ripartire il gruppo. Lo si è cacciato con la complicità degli siderurgici italiani, che invece di pensare a che cosa si poteva fare, hanno visto che Bondi stava abbassando i prezzi e per cui rischiava di togliere le quote di mercato. Da allora tutti coloro che si sono occupati di Ilva lo hanno fatto non pensando a Taranto, Genova e Novi Ligure, l'hanno fatto pensando a sé. Ecco, il limite dei piani industriali di oggi è tutto qui. Il problema vero è ridare slancio a un gruppo fondamentale. Ecco, noi abbiamo una politica anti-industriale, purtroppo è un sentimento trasversale di tutte le forze politiche, dagli incompetenti a quelli dichiaratamente in opposizione all'industria, questi sono i risultati. Tu lo sai che su questo già un anno e mezzo fa i manager, insomma, per Sud Europa, per EMEA e quindi anche per l'Italia di ArcelorMittal davano una risposta argomentata, Marco, a chi diceva la via del preridotto, per intenderci detto. Perché, esatto, ricordiamolo ai radioascoltatori, la citazione fatta da Marco Bentivogli di Bondi era relativa a un piano che introduceva il tema del preridotto, che poi è stato reintrodotto dalla cordata perdente, cioè quella di Jindal, quindi una tecnologia più pulita, su cui ci sono dei dubbi relativi a un tema di costo industriale, di applicazione e applicabilità su Taranto. Gli indiani dicono il preridotto in Italia non si può fare, detta come dicono a Roma, perché il margine che c'è tra il prezzo barra costo, a seconda delle due parti, del rottame di ferro e quello invece il prodotto finale, laddove è ampio, come negli Stati Uniti, cioè insomma, i rottami costano poco, molto poco, allora ha un senso. Qua in Italia no. Ecco, questo è il punto. Però Marco Bentivogli, aspetta un secondo, dice la verità vera è che i concorrenti italiani non ne volevano sentir parlare. Tu, Paolo, che dici? Ma allora, sicuramente Bondi è stato osteggiato in una maniera violentissima da parte della siderurgia italiana e possiamo anche dirlo da parte anche di quella associativa, ecco, di Confindustria. Beh, insomma, si ricordano Antonio Gossi, esatto, per così dire, presidente. Quindi, quello è un dato storico inoppugnabile. Ricordiamo anche che successivamente c'è stato un periodo di riflessione intorno al preridotto, sì, che credo un anno e mezzo fa portò lo stesso Gozzi a fare delle aperture in tema, sul tema di questa tecnologia. Ora la scelta è andata non sul preridotto come specializzazione produttiva, ma su un'acciaieria di tipo tradizionale, quella di ArcelorMittal, la quale va comunque ricordato che ha tecnologie di impatto ambientale che in Europa costituiscono quelle che i tecnici, con una brutta espressione, definiscono comunque best practice. Voglio dire, ArcelorMittal non è un fondo avvoltoio. No, beh, questo deve essere comunque, ecco, stiamo parlando di un protagonista mondiale, quindi di uno dei primi tre gruppi della siderurgia mondiale. In però tu sai, Paolo, primo, che molti hanno delle remole, perché dicono quando loro hanno fatto presenza in Europa sono state poi le prime che hanno smontato di fronte alla riallocazione della produzione il più vicino possibile ai grandi consumatori mondiali, che ovviamente sono Cina, India e così. Ma difatti uno dei grandi temi, e vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quando poco alla volta verranno fatte le disclosure sugli accordi, sulle ipotesi, e capire se i commissari, come avevano in animo, hanno o no inserito all'interno della contrattazione quali clausole ci sono davvero, esatto, no, nella giudicazione, perché su questo voi non ve l'hanno detto, cioè non lo sappiamo ancora, no Marco, quali sono le clausole vere binding, quelle che sono vincolanti. No, allora c'è una delle cose che a me preoccupa personalmente, è che è stato chiesto a entrambe le cordate sostanzialmente una sorta di liberatoria sui rischi regolatori provenienti dalla normativa europea. Tra l'altro la cordata perdente non si è neanche prestata e offerta di firmare nulla su questo. ArcelorMittal pare che qualche difficoltà abbia, però si è dimostrata disponibile a evitare questo tipo di inciampo. Ecco, sarebbe il massimo che dopo un percorso che non ci sia l'impegno su questo, esplicito, no? Sì, perché sì, se gli diamo la liberatoria, ma che cacchio abbiamo fatto per 5 anni? Allora io non vorrei dire, è proprio la follia. Ma voi quando siete ricombocati? domani mattina alle 9, ma io lo dico con qualche purtroppo esperienza negativa. Quando ThyssenKrupp arrivò alla cessione delle acciaierie speciali Terni a Outokumpu, i finlandesi, dopo 6 mesi Almunia e poi a prendere esattamente. Beh, speriamo di aver imparato la lezione. Comunque ci teniamo tutti in contatto per tenere informati i nostri ascoltatori. Continuate su Radio 24.